Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. In questo febbraio chiude i battenti la mostra presente al Museo del Cinema Torinese alla Mola Antonelliana, un'esposizione dedicata a Diabolik. Naturalmente in contemporanea, in parallela, l'uscita nelle sale cinematografiche di Diabolik, l'omonimo film dei Manetti Brothers con Luca Marinelli nella parte dello stesso Diabolik, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e rispettivamente Eva Kent, l'ispettore Ginko. Molte di queste scene del film, lo sappiamo, sono girate a Bologna nei paraggi di Ravenna, quindi c'è anche un po' di Emilia Romagna in tutto ciò. Motivi in più quindi per andare a buttare un occhio, anzi un orecchio, dentro la Mola Antonelliana, perché Luca Beatrice, che assieme a Domenico De Gaetano e Luigi Mascheroni è curatore della stessa esposizione, ci prende per mano e nell'intervista di Morena Moretti ci porta in giro per le sale della mostra stessa. Dopo lo stacco musicale, l'intervista. Cominciare dal fatto che siamo all'interno della Mole Antonelliana, cioè uno dei più importanti, se non addirittura il più importante luogo torinese che ospita il Museo del Cinema ormai da vent'anni, da oltre vent'anni, ma che ha una storia così del tutto particolare, un edificio difficilissimo da utilizzare per mostre e soprattutto per scopi museali. Questo spazio che è stato ricavato per la mostra sui 60 anni di Diabolik in realtà è uno spazio nuovo, che viene utilizzato per la prima volta, è al cosiddetto piano zero, quindi non è la rampa, ma è uno spazio espositivo molto più canonico, più classico fortunatamente, che ci ha permesso insieme a Luigi Mascheroni e a Domenico De Gaetano di raccontare i 60 anni di Diabolik attraverso l'arte, attraverso il cinema, attraverso l'illustrazione, il design, la cronaca nera e la storia d'Italia. Avete fatto di questo lavoro, che mi sembra veramente molto importante, molto anche complesso, ma che cosa siete partiti? Cioè, quali sono i pilastri su cui ruota questo evento? I pilastri sono essenzialmente 60 anni di Diabolik, che in realtà compiono nel 22, quindi abbiamo leggermente anticipato il suo compleanno, di questo eroe del male, o quantomeno un eroe non del bene, no? Italiano, che è una specie quasi di antitesi ai miti della Marvel o quelli americani, dove invece il bene trionfa sempre, che è stato un'icona pop, è stato certamente un personaggio, descrivo come un personaggio come se fosse esistito, in realtà un'invenzione veramente che ha attraversato il costume e la società italiana a partire dagli anni 60. In più c'è stata la coincidenza, 16 dicembre è uscito finalmente nelle sale il Diabolik dei Manetti Brothers, interpretato da Luca Marinelli, da Miriam Leone, da Valerio Mastandrea, direi che la coincidenza non ci poteva sfuggire. Queste indubbiamente sono state le molle che hanno fatto sì che insieme agli altri due curatori io sia riuscito a studiare e in qualche modo anche a collocare il personaggio forse nel luogo migliore che l'Italia poteva ospitare dal punto di vista museale. Quindi Museo del Cinema, e parliamo di cinema, ma non è l'unico film su Diabolik, ma ne sono stati fatti solo un altro, e materiale di scena di questo nuovo film e di quello vecchio ne avete raccolto, mi pare. Esiste un Diabolik del 1968, che è un film assolutamente pop, psichedelico, diretto da Mario Bava, interpretato da John Peter Lowe e Marisa Mell, ma c'è stato un precedente tentativo di portare Diabolik sul grande schermo con Jean Sorel nella parte del nostro eroe o antieroe, in realtà un film che non si è mai terminato, dopo poche settimane di ripresa il film si è come interrotto, e quindi sì, c'è stato un primo Diabolik nel 68, questo finalmente nel 21, sono le due uniche riduzioni, per così dire, per usare un termine forse un po' desueto, sul grande schermo, di cui noi abbiamo raccolto sì materiali di scena, fotografie, manifesti, oggetti, grazie alla collaborazione di Rai Cinema per quest'ultimo episodio e grazie soprattutto all'archivio del Museo del Cinema che conservava alcuni, tra virgolette, cimeli del Mario Bava, del Diabolik di Mario Bava. Signore e signori, ringrazio anzitutto i rappresentanti della stampa che sono presenti in questo studio televisivo. Questa conferenza è stata indetta con lo scopo precipuo di dare a me la possibilità di farvi una comunicazione di estrema importanza. Il governo, sempre vigile e deciso ad estirpare alla radice la crescente criminalità, ha reinstaurato la già abolita pena di morte. Temporaneamente, si intende. Davanti a questa estrema forma di punizione, gli elementi antisociali della nostra società, intendo dire i criminali, vero? Allude a Diabolik? Diabolik, già. Vi assicuro che questo individuo, che col suo stesso nome dimostra di avere in dispregio i fondamentali valori della nostra società, farà presto i conti con la giustizia. Bravo! Bene! Questo delinquente paranoico sembra essersi impegnato in una guerra personale contro la società. È una macchia nera del nostro paese, un abominevole esempio di criminalità che ha superato ogni limite imposto dal convivere civile, infrangendo le regole che sono presupposto di ogni libertà individuale e collettiva. A quanto sembra, il suo divertimento particolare e perverso è di farsi beffe delle benemerite forze di polizia. Ma vi assicuro che non riuscirà a farsi beffe di me. Ma avete anche collocato all'interno della mostra oggetti proprio pop o comunque di design dell'epoca. Avete cioè tentato di ricostruire un ambiente, un habitat dove presumibilmente questi due personaggi che sono Diabolik e Devakant, forse oggetti di cui forse loro si sarebbero potuti circondare, no? No, in realtà c'è una ricostruzione filologica, perché se uno guarda alcune tavole disegnate da Faccio, da Gianni Bonici, dei grandi disegnatori dell'epoca d'oro di Diabolik, ci rendiamo conto che i due, che magari non stavano tantissimo a casa, cioè li immagino meno divanati, noi che siamo ormai assuefatti, no, questa dimensione forse, però indubbiamente vivono in un ambiente alto borghese, di grande gusto, molto moderno, che ha tra i suoi arredi la taccia di Castiglioni, l'arco dello stesso Castiglioni, il tavolo di Sarinen, una chaise longue di Le Corbusier, quindi hanno decisamente un gusto di, adesso lo chiameremo modernariato, ma certamente negli anni 70 aveva un altro tipo di impatto, un grande gusto che va verso un certo tipo di Italian style che passa attraverso il design. È vero che Diabolik e Eva vivono in una città immaginaria che si chiama Clerville, e dal nome si potrebbe pensare che sia francese, che sia svizzera, ma in realtà Diabolik nasce assolutamente a Milano, le sorelle Giussani erano milanesi, certe atmosfere sono assolutamente milanesi. E quindi qual è il legame con Torino? Non esiste un legame particolare con Torino, al di là del fatto che il Museo del Cinema è a Torino, al di là del fatto che un disegnatore storico, Sergio Zanibogni, fosse torinese. No, direi che è più un mondo delle città del nord nei primi anni 60, di quella nebbia. All'epoca c'era la nebbia a Torino, esattamente anche a Milano. Diabolik esce nelle edicole, inizialmente lo trovi soprattutto nelle edicole del nord, nelle edicole della stazione, poi si espande nel resto della penisola, ma soprattutto appunto Milano, Torino, Bologna, le grandi città del nord in qualche modo ne costruiscono un po' la mitologia. Non c'è un legame particolare, anche se possiamo pensare che negli anni 60 la banda Cavallero, che arrivava da Torino ma faceva i colpi a Milano, a Monte Napoleone, avesse disegnato un po' una linea del mare sulla tratta autostradale, però insomma è chiaro che è una suggestione. Diciamo che le atmosfere che raccontano sono molto vere del nord Italia. Quindi in un certo senso con questa mostra, questo personaggio che è Diabolik, è un personaggio di carta, si incarna invece. Non è la prima, nel senso che io ricordo di aver visto delle mostre dedicate a Corto Maltese, per esempio, un altro grande personaggio, sì, del fumetto italiano, del storie italiane da raccontare, insomma Tex, probabilmente Valentina, soprattutto Valentina di Crepax. Forse la differenza è che in questo caso non è una mostra, diciamo, per specialisti nel fumetto o solo per specialisti nel fumetto, ma una mostra che vuole raccontare un mito italiano, ecco, e quindi da più punti di vista. Invece ci sono delle automobili esposte al MAUTO, al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Sì, al MAUTO, il Museo dell'Automobile, che è dalla parte opposta della città, ma insomma non essendo noi così grandi dal punto di vista dei chilometri ci si può arrivare facilmente. Sono esposte non solo la famosa Jaguar E-Type, cioè nera, storica, tra bianca, che Diabolica aveva regalato a Eva, ma anche quella rossa, Spider, appartenuta alle sorelle Giussani. Ci sono anche delle altre auto che ricorrono negli albi illustrati, per esempio la Citroën Endes che guidava l'ispettore Ginco, e poi tanti modelli da collezione molto divertenti che insomma in qualche modo completano il nostro percorso al MAU, al Museo del Cinema. Invece per quanto riguarda tavole e disegni originali ne sono presenti? Sì, quello ovviamente è un lascito importante, un esito importante anzi, che arriva da Storina, cioè la casa editrice che stampa ancora oggi Diaboli, che venne inventata tra virgolette dalle sorelle Giussani e che è diretta da Mario Gomboli, persona di grande generosità, che ci ha prestato i veri e propri cimeli. Abbiamo targato la intervista a Luca e Beatrice legata alla mostra su Diabolica al Museo del Cinema di Torino con la colonna sonora dell'omonimo film dei Manetti Brothers. A questo punto andiamo a sentire un'intervista delle stesse sorelle Giussani, le creatrici di Diabolik, Angela e Luciana, Angela la più anziana, quella che ha dato il via al fumetto, e Luciana che poi si è ben presto aggregata, e sentiamo da loro come hanno vissuto questa epopea che ha creato un fumetto che è arrivato ad avere anche 1 milione di giovani lettori. Ho fatto le magistrali e poi ho lavorato in un ufficio, invece Angela ha sposato un editore, Gino Sansoni, che era il titolare della casa editrice Astoria, che pubblicava horror, Forza Milan e autori di genere popolare. L'Angela non aveva il carattere della casalinga e aiutava il marito nel suo lavoro, ed è così che si è appassionata al lavoro della casa editrice e a un certo punto si è detta: mi faccio un fumetto tutto mio. Ed è così che è nata la Storina, la nostra casa editrice, più piccola e senza pretese. Piccola, che però è diventata un punto di riferimento dell'editoria dei fumetti. Beh, non è andata sempre bene. Inizialmente facevamo un fumetto americano sulla Box, Big Ben Bolt, John Colin Murphy, che però non tirava. E mentre impaginavo mi veniva da pensare che il fumetto si potesse fare con delle storie un po' più interessanti. E da dove arriva l'ispirazione per Diabolik? A quei tempi in televisione trasmettevano parecchi sceneggiati ispirati all'Ottocento, tipo Le Due Orfanelle, I Due Sergenti. Anche se io non li guardavo, sapevo che avevano un indice di gradimento altissimo, un'audience favolosa. Per conto mio ero più appassionata ai gialli, più che ai feuilleton. Ho pensato di ispirarmi un po' all'uno, un po' all'altro, e a quei personaggi negativi dell'Ottocento, magari un po' intricati, però avvincenti, belli. Phantom Hunt, Arsène Lupin, Rocambole. Andavo a leggiucchiare nelle biblioteche e, dato che mi piacevano, le ho modernizzate. Voleva assolutamente inventare un personaggio che fosse nuovo e che avesse veramente una presa sul pubblico, per cui a un certo punto ha capito che effettivamente mancava un fumetto per adulti. In realtà ho creato Diabolik anche per offrire ai pendolari della Nord un'avventura piena di colpi di scena da leggere in treno. Ma inizialmente ho creato le mie prime storie da sola, anche se facevo leggere a mezzo mondo tutti i ragazzi che conoscevo, chi mi diceva beh però è un bel giallo, oppure non so, il garzone del garage che diceva però non finisce perché lui non lo prendono. Poi mia sorella Luciana è arrivata in un modo quasi naturale, ma forse anche lei era portata a creare. Poi non so, ne parlavano sempre. Noi parlavamo sempre di tutto, in realtà veniamo da una famiglia molto tradizionale dove i rapporti tra le persone erano dettati dalle consuetudini dell'epoca e ovviamente non c'era dialogo tra le persone, c'era un rapporto di autorità. E quando è che avete iniziato a lavorare insieme, prima o dopo il successo di Diabolik? Prima, diciamo che all'inizio Diabolik non era esposto dagli edicolanti, quindi era poco conosciuto e di conseguenza i primi 4-5 mesi le vendite sono state molto scarse. Io ho battuto per un anno tutte le edicole, andavo con i fiaschi di vino dagli edicolanti a cercare di convincerli a esporre Diabolik, per cui insomma per un anno attaccavo le locandine e poi solo col numero 14 ho iniziato a scrivere storie e sceneggiare. Siete state molto tenaci. Guardi, le racconto del momento in cui abbiamo avuto la sensazione che potesse andare bene. E è successo, me lo ricordo perfettamente, era un pomeriggio del dicembre del 63 e a un certo punto sulla soglia della redazione si affacciano due ragazzi e ci chiesero: ma quando esce il prossimo Diabolik? E noi a quel punto abbiamo capito che loro credevano che Diabolik sarebbe stato catturato e invece quando seppero che non era così erano assolutamente elettrizzati all'idea che uscissero dei nuovi albi, per cui noi ci siamo assolutamente guardati in faccia nel totale silenzio e abbiamo capito che ce l'avevamo fatta. Poi sì, ci sono voluti mesi per verificare i veri dati del successo, ma insomma quello è stato veramente un momento magico che io non dimenticherò mai. Riteniamo che in Diabolik non ci sia niente che possa offendere il pudore di un ragazzo, c'è solo la violenza dovuta al giallo e basta. Per far capire davvero quanto fosse rivoluzionario Diabolik, vi leggo qualche estratto da un documento elaborato dall'Whisper, che è la componente cattolica dell'Associazione Italiana Editori Periodici per Ragazzi. Siamo nell'aprile del 61, una specie di codice morale dell'editoria per ragazzi. Sotto la sezione crimine e orrore si legge: primo, la stampa per ragazzi non deve mai presentare le azioni criminose in modo tale da suscitare simpatia per il criminale, sfiducia nella legge e nella giustizia. Il fatto criminoso dovrà apparire un'azione assolutamente riprovevole. Che noia! Si moderi l'uso del coltello e della pistola. Il concetto del bene deve in ogni caso trionfare sul concetto del male. Meno di un anno dopo, nel novembre del 62, esce Il re del terrore. Il primo albo di Diabolik, un protagonista che porta il nome del diavolo, una cappa finale che rafforza il concetto di oscurità, un eroe, diciamolo, assolutamente negativo. Insomma, il male trionfa. Ma non è così, perché in Diabolik il male fugge e non è affatto vittorioso un personaggio che deve sempre vivere nascosto e in fuga. Osservate, siete state accusate di influenzare negativamente gli adolescenti, cattive proprio cattive maestre. Sì, ci hanno accusato che con Diabolik fomentavamo la violenza, il che è assurdo, ma anche gli stessi benpensanti che fanno queste accuse sanno benissimo che origini ha la violenza, sono origini sociali, sono origini di miseria, eccetera, quindi io non sento neanche di dovermi giustificare contro queste accuse. Pensi che c'è stato un periodo in cui se veniva arrestato un rapinatore, la prima cosa che veniva messa in evidenza era se aveva dei fumetti di Diabolik in casa o meno. come se i fumetti fossero i responsabili del suo comportamento. Ma oltretutto Diabolik non è il primo personaggio negativo. Abbiamo avuto fin da un secolo e mezzo prima di Diabolik una decina di personaggi di questo genere. Non credo che la Francia, per esempio, possa aver messo nelle sue statistiche che la criminalità è aumentata quando i francesi hanno cominciato a leggere Arsenio Lupin. Diabolik era un personaggio negativo, allora anche chi lo creava doveva esserlo, giù a dipingerci come vecchie, brutte, streghe, senza averci mai visto. Come ogni redazione di fumetti, anche noi alla Storina avevamo tutta una serie di ruoli che erano il grafico impaginatore, l'art director che controllava le tavole e poi le correggeva, e poi il correttore di bozze, poi il direttore responsabile, poi c'era il direttore marketing, quello che si occupava di studiare il mercato soprattutto nel caso dei pendolari delle Ferrovie Nord, e poi naturalmente soggettisti, disegnatori. E ecco, forse la nostra peculiarità era che tutti questi ruoli erano svolti da mia sorella e da me, in un gioco frenetico di cambio delle parti, ecco. Partiva da un'idea che delle volte veniva mandata da dei lettori che mandavano degli spunti, e delle volte nasceva da ognuna di noi. Ognuno di noi metteva giù un brogliaccio iniziale con i punti del soggetto. Teniamo presente che è un giornalino di 120 pagine, di cosa ne devono succedere? Perché poi nel fumetto non è come al cinema, che c'è la musica che fa suspense, che tira in lungo, eccetera. Nel fumetto devono succedere cose subito, perché sennò il lettore lo pianta lì. Il fumetto ha un trucco, che è quello di essere rapido e veloce. E io, per aiutarmi, non ho mai scritto né a macchina né al computer. Usavo uno di quei quaderni blocchi a quadretti che tenevo aperti sulle due pagine, in modo da avere così una visione d'insieme del montaggio e un senso del ritmo, per cui evitavamo di ripetere, non so, troppi primi piani piuttosto che mezzi busti, e perché il ritmo in una storia è sicuramente la cosa più importante. Ad esempio i telefilm americani in questo sono dei piccoli capolavori. Per quanto riguarda i disegnatori, utilizzavate un processo, diciamo così, all'americana, cioè con grande specializzazione nei diversi settori, e così? Sì, perché in questo modo Diabolik aveva sempre la stessa impronta, cioè non c'erano diversità e quindi il lettore ritrovava sempre lo stesso stile. Per prime si facevano le matite e poi venivano passate a china. Il disegnatore era una parte importante, ma sicuramente non era l'unica, perché era un lavoro di tutta la redazione, per cui non è che si potesse dire così tout court che un numero di fumetti fosse solo di Zaniboni. Magari le matite erano le sue, poi sopra c'erano le chine di Paludetti, Fiumà, insomma era un lavoro di tutta la redazione. E i primi numeri sono stati disegnati da persone diverse, erano disegnati malissimo. Col numero 8 ha iniziato Enzo Facciolo, e poi quando Diabolik nel 1964 è diventato quattordicinale ha cominciato a collaborare anche Glauco Coretti, Armando Bonato, Flavio Buzzoli, Sergio Zaniboni, Franco Paludetti, Brenno Fiumai. Avevamo un grafico che si chiamava Brenno Fiumai, che era bravissimo, lui riguardava i disegni. Quando il Brenno aveva guardato e aveva detto per me va bene, era difficile che andasse male, che ci fosse qualcosa che non andava. Poi noi volevamo guardare perché eravamo tutte e tre delle perfezioniste. Ad esempio l'ultima lettura la dovevo fare sempre io, perché a me non scappano mai i refusi, mai. Sai quanto costa il primo numero di Diabolik? Noi ne avevamo una copia sola che tenevamo in redazione nascosta sotto vetro senza farla vedere a nessuno, perché le rese delle edicole le mandavamo al macero, per cui c'erano pochissime copie. Diabolik è anche un personaggio molto moderno e appassionato di tecnologie, e poi molto celebre per questa macchina bellissima, una Jaguar E-Type, che sembra una macchina del futuro perché siamo nel 61. Una macchina assolutamente avveniristica e mostruosa, con quel muso lì,